Credo che voi sappiate che questa è la prima di una serie di tre lezioni che trattano complessivamente, sotto diversi punti di vista, dei diritti umani e dei diritti fondamentali. E quindi io vi parlerò oggi, come sapete, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e il dottor Virgilio D'Astoli, che è stato non solo un funzionario del Parlamento europeo e della Commissione europea, ma anche e soprattutto è stato l'assistente di uno dei padri fondatori, diciamo così, dell'idea stessa della Unione europea e di una addirittura Costituzione europea, e cioè è stato l'assistente di Altiero Spinelli, che con Ernesto Rossi è stato l'autore di quel manifesto di Ventotene che ancora a tutt'oggi è il documento forse più importante del contributo dell'Italia a questa grande idea dell'unità d'Europa. Dunque, scusate, che cos'è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea? Le Carte dei diritti sono dei documenti che stabiliscono quali siano i diritti che il potere politico riconosce e si impegna a rispettare nei confronti di coloro a cui queste carte sono dirette. Naturalmente il riconoscimento spesso è frutto di lunghe lotte e il rispetto non è sempre del tutto garantito. Comunque hanno un'importante funzione e queste carte hanno una lunga tradizione in Occidente e in particolare in Europa. Da ultimo proprio anche nell'Unione Europea, la quale, come vedremo, non è fatta soltanto di libero mercato, di banche, di regole di bilancio. In realtà l'Europa è anche la regione del mondo dove sono meglio rispettati i diritti fondamentali delle persone. Da noi in Italia la Carta dei diritti è la prima parte della nostra Costituzione. Per capire che cos'è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, bisognerebbe inquadrarla in un contesto internazionale e ripercorrere un po' di storia. La lunga storia dei diritti individuali e dei diritti umani ha radici antiche, ma ha avuto esiti efficaci per tutti solo ai nostri tempi, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La rivendicazione della libertà trova antecedenti in un passato molto lontano. Il riferimento più noto è quello, si trova nella storia inglese, nella Magna Carta, nella Magna Carta Libertatum del 1215, concessa da Giovanni Senza Terra ai baroni inglesi, e che enuncia il principio dell'habeas corpus, cioè il diritto degli uomini liberi, i baroni, i cavalieri, non i servi, a non essere imprigionati senza un regolare processo da parte di una corte di pari. Un importante progresso l'abbiamo sempre in Inghilterra nel 600 con il Bill of Rights, un documento del Parlamento inglese, c'era già il Parlamento in Inghilterra, accettato dal re Guglielmo II d'Orange, in cui il Parlamento inglese rivendicava, fra l'altro, libere elezioni e il diritto di approvare le leggi e i tributi. Con il giusnaturalismo appare l'idea dei diritti dell'uomo fondati sul presupposto dell'uguaglianza naturale di tutti gli uomini. Alla fine del Settecento i diritti umani vengono affermati come universali, cioè spettanti a ogni uomo, nelle due grandi dichiarazioni: la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del 4 luglio del 1776 e la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino approvata dall'Assemblea Nazionale Francese il 26 agosto del 1789. In questo modo si afferma la nascente cultura borghese che rifiuta i privilegi riconosciuti per nascita agli aristocratici. Ma le pretese universalistiche di queste dichiarazioni dei diritti dell'uomo sono soltanto apparenti. Basti pensare che fra coloro che il 4 luglio del 1776 approvarono la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, in cui si dice: «Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità, che tutti gli uomini sono creati eguali, che essi sono dal creatore dotati di certi inalienabili diritti, che fra questi diritti ci sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità, beh, fra costoro che sottoscrissero questa dichiarazione vi erano proprietari di schiavi. È una cosa che Lelio Basso ricordava spesso. La pretesa uguaglianza riguardava in realtà soltanto i maschi bianchi. E d'altronde esperienza comune, succede anche adesso, che gli esseri umani tendono a riconoscere come uguali solo coloro che assomigliano a sé, che hanno lo stesso colore della pelle, la stessa cultura, la stessa religione, i diversi sono sempre un po' meno uguali. Di fatto, nelle Costituzioni e nelle codificazioni dell'Ottocento si troverà soltanto il parziale riconoscimento di diritti civili e di diritti politici dei cittadini adulti, abbienti e di sesso maschile, escludendo le donne, i poveri, gli stranieri. E questo è il periodo in cui si afferma la sovranità esclusiva dello Stato-nazione, che è l'unica fonte di produzione del diritto. Nessun altro, se non lo Stato, può dettare leggi. Ed è questo onnipotente legislatore che delle volte si autolimita e garantisce delle prerogative ai suoi cittadini. Alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, l'avvento della società industriale crea un grande rivolgimento perché emerge la questione sociale che suscita la formazione di vari movimenti in difesa delle condizioni di vita dei gruppi svantaggiati. Nascono dapprima ancora una volta nel mondo anglosassone i sindacati, che si diffondono poi in altri paesi europei, sorgono associazioni e movimenti femminili, alcuni dei quali si battono per il riconoscimento dei diritti di voto alle donne. I diritti sociali saranno affermati per la prima volta nella Costituzione di Weimar del 1919, anche come sviluppo delle provvidenze, delle misure di assistenza che già la Germania di Bismarck aveva disposto a tutela dei lavoratori. In realtà, ancora una volta, le prime leggi a favore dei poveri erano apparse in Gran Bretagna, dove però ancora oggi i diritti sociali non hanno un formale riconoscimento come diritti fondamentali delle persone. E questa diversa tradizione ha comportato discussioni molto vivaci nel corso della redazione proprio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Purtroppo nel corso degli anni 20 e 30 del Novecento, in quella stessa Europa che era sembrata la culla della cultura dei diritti, questa cultura viene brutalmente travolta dalle dittature che si instaurano prima in Italia, poi in Germania, accettate più che subite dalla gran parte delle popolazioni. Poi la Seconda Guerra Mondiale, scatenata dal nazismo, sostenuta dal fascismo, travolge l'intera Europa e coinvolge il mondo intero. Ed è però nel secondo dopoguerra, circa 70 anni fa, che ha luogo una silenziosa ma profonda rivoluzione dei diritti umani. Perché il peso degli orrori di quella guerra, la scoperta delle dimensioni dell'Olocausto e insieme la speranza di poter costruire un diverso futuro, producono un grande cambiamento nella concezione del diritto, che trasforma progressivamente la cultura giuridica e le stesse istituzioni internazionali. Questa nuova cultura dei diritti è fondata sull'idea che tutti gli esseri umani, non per natura, ma per scelta, debbano essere dotati di prerogative essenziali inviolabili, che uno Stato non possa avere il diritto di opprimere o addirittura di sterminare una parte dei suoi cittadini. Che dunque la sovranità statale non possa più essere assoluta. I diritti inalienabili degli individui non possono essere ostaggio del potere politico che si afferma in ciascuno Stato. E sulla base di questa concezione si riuscì allora a rifondare il diritto internazionale, a costituire l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che appunto è stata istituita nel giugno del 1945, e la cui Assemblea ha approvato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo a Parigi nel 1948. Purtroppo le vicende storiche successive alla Seconda Guerra Mondiale, dapprima la divisione del mondo in due blocchi, poi il cambiamento della politica statunitense, hanno indebolito un po' l'Organizzazione delle Nazioni Unite e lo stesso valore della sua dichiarazione. Tuttavia, questa dichiarazione segna in ogni caso l'affermazione di principi tendenzialmente davvero universali, che metteranno radici sotto diversi aspetti, in diversi ambiti e in primo luogo proprio in Europa. Il superamento della concezione della onnipotenza del legislatore statale fonda il moderno costituzionalismo. Si afferma la rigidità delle costituzioni, che sono sovraordinate alle leggi ordinarie e dunque costituiscono dei limiti e dei vincoli ai poteri delle maggioranze e vengono dotate di apposite garanzie giurisdizionali, le corti costituzionali. Se una legge viola un diritto fondamentale di un individuo, può essere annullata da una corte costituzionale. E queste garanzie dei diritti fondamentali sono caratteristiche di tutte le costituzioni adottate dai paesi che in Europa hanno raggiunto la democrazia dopo la caduta di regimi autoritari o totalitari, dall'Italia alla Germania, alla Spagna, il Portogallo, la Grecia e ora anche i paesi dell'est europeo dopo la caduta del muro di Berlino. I principi del costituzionalismo si affermano progressivamente anche a livello sopranazionale e oggi nell'intera Europa, come in gran parte del continente americano. In Europa, infatti, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo ha avuto un seguito concreto. Il 5 maggio del 1949 veniva istituito il Consiglio d'Europa, quello con sede a Strasburgo, con lo scopo di tutelare i diritti dell'uomo e la democrazia. Sotto l'egida del Consiglio d'Europa viene firmata a Roma, il 4 novembre del 1950, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'acronimo usato è CEDU, Convenzione europea dei diritti umani. Ad oggi sono 47 gli stati europei, quasi tutti, che hanno aderito alla CEDU e fanno parte del Consiglio d'Europa. In questo modo si sottopongono ai controlli, ai rapporti, alle raccomandazioni del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ma soprattutto si sottomettono alle decisioni e alle sanzioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, alla quale possono far ricorso tutti gli individui che ritengano che uno Stato non abbia rispettato i diritti loro riconosciuti dalla CEDU, dopo aver tentato di aver giustizia in quello Stato. Ma l'esempio forse più significativo di un costituzionalismo sopranazionale è quello che ci viene dall'Unione Europea. Con l'istituzione della Comunità Economica Europea nel 1957 e prima ancora della CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, istituita nel 1951, si inventa qualcosa che non ha precedenti nella storia delle istituzioni del mondo intero. Stati democratici condividono quote di sovranità, in primo luogo per garantire la pace. Paesi che nei secoli passati si erano dilaniati a vicenda in guerre feroci si accorgono che soltanto cominciando a condividere le risorse fondamentali, il carbone e l'acciaio che servivano allora per fare la guerra, possono garantirsi la pace e a questo scopo costruiscono istituzioni comuni. Ed è questa la novità, perché anche in passato tante volte si erano stipulati trattati di pace, che poi vengono regolarmente stracciati ogni volta che si decide di entrare in guerra. Ma i trattati che istituiscono la CECA, l'Euratom, la Comunità Economica Europea e infine l'Unione Europea sono differenti da questi trattati di pace tradizionali, perché costruendo istituzioni comuni che gestiscono quote di sovranità condivisa, i vincoli fra i paesi e i popoli sono tali che diventa impossibile che contrasti di interessi portino a una guerra. D'altra parte, voi sapete, una volta si facevano la guerra a Pisa e Firenze, o il Regno di Sardegna e il Regno di Napoli, quando hanno finito per far parte dello stesso Granducato quelli o della stessa nazione, questi altri non possono più farsi la guerra, si trovano altre strade per dirimere i loro contrasti. Quindi l'Europa, il continente che è stato dilaniato dalle più atroci guerre che il mondo abbia conosciuto, è diventato il luogo in cui la pace è assicurata da strutture giuridiche comuni. E questo è stato il primo risultato positivo di questa straordinaria invenzione, che poi si è sviluppata, purtroppo non realizzando il sogno caro ai nostri federalisti degli Stati Uniti d'Europa, ma procedendo a piccoli passi, seguendo delle vie lunghe e graduali, basate sulla fusione degli interessi economici dei cittadini europei. costruendo un mercato comune, poi un mercato unico, una moneta unica. Così nasce e si consolida una entità sopranazionale che coesiste con gli stati nazionali e si dota anche di istituzioni di controllo democratico come il Parlamento europeo, di controllo giurisdizionale come la Corte di giustizia dell'Unione europea. Questa coesistenza si fonda all'inizio su una divisione di compiti. La comunità mira a costruire un sistema economico continentale fondato sulla libertà di circolazione dei beni, delle persone, dei capitali e dei servizi, mentre resta di competenza degli stati nazionali la politica sociale, la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, la politica estera, eccetera. Ora, una comunità realizzata essenzialmente sul piano economico presentava un rischio di prevalenza delle regole di mercato sulla tutela dei diritti fondamentali che vengono garantiti dagli stati, proprio perché esiste un principio di primato, di prevalenza del diritto della comunità rispetto agli stati membri, perché le regole della Unione devono essere comuni per tutti. Ora, per far fronte a questo rischio, già molto tempo fa, nel 69, la Corte di giustizia aveva affermato che la tutela dei diritti fondamentali costituisce parte integrante dei principi giuridici generali, di cui la stessa Corte intendeva garantire il rispetto. Poi, con il Trattato di Maastricht del 1992, viene introdotta, fra le tante molte altre cose che il Trattato di Maastricht, che avrete sentito più volte nominare, istituisce, viene introdotta anche la disposizione che prevede il rispetto da parte dell'Unione Europea dei diritti fondamentali delle persone, quali sono garantiti dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani e dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Ora, si tratta chiaramente di una soluzione precaria, perché non sono certamente chiari, non sono ben definiti i diritti che non stanno scritti in un testo unitario, ma provengono da fonti diverse e non facilmente riconoscibili. Anche un giurista avrebbe difficoltà a rintracciare quali sono le tradizioni costituzionali comuni dei oggi 28 Stati membri dell'Unione. Questo appunto costituisce un problema di crescente rilevanza, perché i trattati successivamente modificati hanno da un lato aumentato il numero dei paesi aderenti. Dagli iniziali 6 paesi fondatori si era arrivati nel 1995 fino a 15. Poi ulteriormente aumenteranno ancora a 25 nel 2004, a 27 nel 2007 e a 28 nel 2013. Quindi da un lato aumentano i paesi, dall'altro aumentano le competenze dell'Unione. Si è introdotta una politica monetaria comune che darà luogo all'introduzione dell'euro, si è istituita una cittadinanza europea, prefigurata una politica estera comune, ma soprattutto col Trattato di Amsterdam, che è entrato in vigore nel 1999, si è istituito uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia. E si tratta cioè di materie che toccano direttamente i diritti tradizionali di libertà delle persone. E perciò era diventato davvero necessario definire con chiarezza i diritti fondamentali da rispettare nella disciplina di queste materie. Ed è proprio nel 1999, dopo anni di sollecitazione da parte del Parlamento europeo, che l'aveva richiesto più volte, e dopo alcuni studi promossi dalla Commissione europea, in coincidenza con l'avvio della legislatura 1999-2004, si avvia finalmente un interessante processo di costituzionalizzazione dell'Unione Europea che darà luogo all'introduzione della Carta dei diritti fondamentali e poi anche un progetto di trattato costituzionale che però sarà solo parzialmente recepito. La decisione del Consiglio Europeo di Colonia nel giugno del 1999 affermava solennemente che la tutela dei diritti fondamentali costituisce un principio fondatore dell'Unione Europea e il presupposto indispensabile della sua legittimità. Dichiarava quindi che allo stato attuale dello sviluppo dell'Unione è necessario elaborare una carta di tali diritti al fine di sancirne in modo visibile l'importanza capitale e la portata per i cittadini dell'Unione. In altre parole, si riconosce legittima l'Unione Europea solo in quanto rispetti i diritti fondamentali delle persone. E infatti, con la proclamazione poi della Carta nel dicembre del 2000, L'Unione Europea diventa davvero un'unione di diritto destinata a promuovere la dignità delle persone, a garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini e non più soltanto un'unione economica. Particolarmente originale è l'organismo al quale è stato affidato il compito di redigere il progetto di Carta dei diritti fondamentali, che era composto dai rappresentanti degli allora 15 capi di Stato e di Governo, del Presidente della Commissione europea, di 16 membri del Parlamento europeo e di 30 membri dei parlamenti nazionali. Questo organismo ha assunto il nome di Convenzione. Io ho avuto il privilegio di partecipare a questo organismo fra i rappresentanti del Parlamento europeo e, se poi avremo tempo e voglia, posso raccontarvi di che cosa e quanto vivacemente si discutesse. Nuova è stata anche la modalità di lavoro. La trasparenza dei lavori è stata totale. Il pubblico poteva accedere alle sale di riunione della Convenzione, tutti i documenti venivano pubblicati su un apposito sito internet accessibile a tutti, associazioni private, lobby, studiosi hanno presentato numerosissimi documenti, sono state organizzate audizioni dei paesi che avevano chiesto l'adesione all'Unione Europea, e anche di organizzazioni non governative, varie ONG, che ne avevano fatto richiesta. I lavori procedevano sulla base di documenti che venivano predisposti dalla Presidenza, che era retta molto saggiamente dal giurista ed ex presidente della Repubblica Federale Tedesca, Roman Herzog. I testi quindi venivano predisposti da loro, discussi dalla Convenzione, poi rielaborati sulla base degli orientamenti emersi, degli emendamenti presentati da tutti i componenti, e poi di nuovo sottoposti all'esame della Convenzione, senza che si procedesse a una votazione, ma ricercando volta a volta il più ampio consenso attraverso aggiustamenti progressivi. Questo metodo ha consentito di evitare maggioranze variabili che creassero contraddizioni interne al testo e di cercare delle sintesi che rispondessero alle esigenze più diffuse e tenessero conto del peso delle obiezioni formulate. E così si è raggiunta un'adesione sul testo finale praticamente totalitaria, con molto maggiore di quella manifestatasi sui singoli punti. E la formulazione alla fine di un testo equilibrato e coerente in tutte le sue parti. L'elaborazione della carta ha impegnato la prima convenzione per circa 9 mesi, dal dicembre del 99 al settembre del 2000, e si può affermare che è stato un successo. Infatti, nonostante le profonde differenze politiche, culturali, di interessi nazionali e perfino, forse soprattutto, di tradizioni giuridiche fra i delegati che rappresentavano nella convenzione i diversi paesi, le diverse istituzioni, il progetto ha trovato il consenso della Convenzione e la carta, sottoscritta dai rappresentanti delle istituzioni dell'Unione, è stata proclamata il 7 dicembre del 2000 in occasione della conclusione della conferenza intergovernativa di Nizza, di cui il nome di Carta di Nizza, con il quale spesso è individuata questa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Anche per i suoi contenuti la Carta rappresenta un risultato straordinariamente positivo se si considera che costituisce, come era inevitabile, un compromesso fra posizioni diverse. Benché il mandato del Consiglio di Colonia fosse stato quello di provvedere a una codificazione di diritti esistenti, cioè una ricognizione, una sintesi dei diritti comunemente riconosciuti in Europa, che assicurasse un effetto di visibilità, di certezza, il risultato in realtà ha avuto una notevole carica di innovazione, che si è realizzata introducendo in quest'opera di codificazione anche diverse convenzioni internazionali sottoscritte da tutti gli Stati membri, dunque indicative di un consenso comune, e tenendo conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti Umani. Si è così trovato un consenso sufficiente alla codificazione di alcuni nuovi diritti che, sebbene vigenti, non erano ancora pienamente consacrati nelle Costituzioni come diritti fondamentali. Per esempio la protezione dei dati personali o i principi relativi alla bioetica, e devo dire che per la formulazione degli articoli relativi a queste materie è stato fondamentale l'apporto italiano, in particolare perché il governo italiano aveva designato a rappresentarlo il giurista Stefano Rodotà, che ha avuto un'influenza notevole nella Convenzione, in particolare nella redazione di questi articoli. Nuovi erano anche il diritto all'ambiente, il diritto dei consumatori, il diritto ad una buona amministrazione, i diritti dei bambini. Secondo uno schema originale, i 50 articoli della Carta, che sanciscono altrettanti diritti fondamentali, sono suddivisi non per settori o materie come avviene nelle costituzioni nazionali, i diritti civili, i diritti politici, i diritti economici, eccetera, ma per valori: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia sono i 6 valori fondamentali che costituiscono altrettanti capitoli della Carta. A questi 50 articoli si aggiungono 4 clausole generali che specificano l'ambito di applicabilità della Carta, il rapporto fra questi e gli altri strumenti nazionali o internazionali di tutela dei diritti fondamentali. Quindi la Carta precisa i valori, i principi, i diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione in un elenco che costituisce il più completo testo del genere mai approvato in un qualsiasi contesto interno o internazionale. Non c'è alcun diritto riconosciuto nella modernità come fondamentale che non possa essere riportato alle formulazioni della Carta. Ai diritti cosiddetti di prima e seconda generazione, i diritti civili, di libertà e i diritti politici propri della tradizione liberal-democratica, la Carta aggiunge i diritti di terza generazione, i diritti cioè socio-economici, e i già citati nuovi diritti. Gli articoli della Carta ribadiscono innanzitutto, in particolare nel capitolo della libertà, i diritti sanciti dalla Convenzione europea dei diritti umani. Alcune norme riproducono testualmente quelle della Convenzione del 1950, altre invece sono formulate in modo innovativo, come quelle relative alla formazione della famiglia, al diritto di sposarsi. L'articolo fondamentale della Carta è l'articolo 1, per il quale la dignità umana è inviolabile, un articolo che, a pari di quelli sull'uguaglianza e il divieto di discriminazione, è applicabile in qualsiasi ambito e quindi è in grado di dare una tutela anche a situazioni non espressamente regolamentate dal diritto dell'Unione. Ed è proprio dignità e uguaglianza, sono stati i principi maggiormente utilizzati dalla giurisprudenza delle corti europee, nazionali o anche sovranazionali. E di grande importanza è anche l'innovativo articolo 3 sul diritto all'integrità della persona, che specifica in 4 punti i principi della bioetica, stabilendo che nell'ambito della medicina e della biologia devono essere rispettati il consenso libero e informato della persona interessata, il divieto di pratiche eugenetiche, in particolare quelle aventi come scopo la selezione delle persone, il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, il divieto di clonazione riproduttiva degli esseri umani. Un intero capo della Carta è dedicato ai temi dell'uguaglianza, dalla classica uguaglianza davanti alla legge, al divieto di discriminazione che contempla numerosissime ipotesi, alla parità fra uomini e donne, che consente poi anche l'adozione di misure in favore del sesso sottorappresentato, le cosiddette azioni positive. Poi bambini, anziani e disabili godono di una tutela speciale calibrata sulle loro specifiche esigenze, perché evidentemente il principio di uguaglianza significa trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo differente situazioni differenti. Nel capitolo della solidarietà figurano molti dei diritti del lavoro e della sicurezza sociale, il diritto alle ferie, ai riposi, la maternità, la tutela della malattia, il diritto di sciopero e di azioni collettive, l'accesso ai servizi di collocamento, eccetera. In particolare la Carta rende diritto fondamentale il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nei luoghi di lavoro e sancisce il divieto di licenziamento ingiustificato. Previsioni che non si trovano in genere nelle Costituzioni nazionali. Il capitolo contempla anche la protezione della salute, la tutela dell'ambiente, i diritti dei consumatori e innovativo è anche l'articolo che prevede il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa, volta a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti. Il capo della giustizia riproduce le tradizionali norme sulla presunzione di innocenza, i principi di legalità e proporzionalità delle pene, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, insomma il tema del giusto processo che è uno degli articoli più ampiamente utilizzato dalle corti europee. Infine, nel capo della cittadinanza figurano i tradizionali diritti civili, politici dei cittadini dell'Unione, il diritto di voto, di eleggibilità, ma anche nuovi diritti come quello ad una buona amministrazione, come dicevo, che si riferisce direttamente all'azione degli organi di Bruxelles, quindi diritto ad essere ascoltato, diritto a un provvedimento motivato, diritto al risarcimento del danno causato da funzionari europei, eccetera. È poi prevista la figura del mediatore europeo deputato all'esame dei reclami per i casi di cattiva amministrazione. Gli ultimi articoli precisano la sfera di applicazione della Carta, il rapporto con altri strumenti di tutela, stabilendo il principio del trattamento di miglior favore. Nel caso che in una stessa situazione sia tutelata da norme internazionali, europee e nazionali, si applica la norma più favorevole all'interessato. Un importante elemento di innovazione della Carta è proprio questa sua struttura, che sottolinea l'indivisibilità dei diritti fondamentali. La necessaria coesistenza di questi consente un'adeguata interpretazione della portata di ciascuno e costituisce un quadro generale di riferimento per tutte le attività dell'Unione. E poi la specificazione dei diritti dei cittadini in un apposito capo, diritti che spettano ai soli cittadini europei, come quello evidentemente di eleggere il Parlamento europeo, mette in evidenza invece la universalità dei diritti fondamentali elencati negli altri capitoli, che spettano ad ogni essere umano, a chiunque si trovi nel territorio dell'Unione Europea, gode di quei diritti. La Carta dei diritti rappresenta quindi una carta d'identità dell'Unione Europea, perché raggruppa i valori condivisi, i principi comuni, definisce i contenuti e le condizioni che rendono possibile quella unità nella diversità che è il motto della Unione Europea, della sua caratteristica specifica, perché tradizioni culturali diverse, lingue, religioni, etnie diverse possono coesistere in una comunità di diritto grazie al riconoscimento della pari dignità di ciascuno, che è garantita dalla laicità delle istituzioni comuni. E la Carta disegna anche un modello sociale europeo definito e distinto rispetto al resto del mondo, ma anche rispetto ad altri modelli dell'Occidente democratico. La Carta infatti comprende diritti sociali che non sono riconosciuti come diritti fondamentali in altri paesi occidentali e anche nel consolidato terreno della tradizione liberale presenta una specificità europea come l'assoluta proibizione della pena di morte, che non è un dato comune a tutto l'Occidente. E sebbene la Carta abbia acquisito un valore giuridico vincolante soltanto con il Trattato di Lisbona, che è entrato in vigore nel dicembre del 2009, fine dalla sua proclamazione nel dicembre del 2000, ha cominciato a vivere nelle istituzioni e anche nella giurisdizione, perché come tutti i testi di rilievo costituzionale, la Carta è un insieme di norme di orientamento dell'azione dell'Unione. E basti pensare che i paesi che sono entrati nell'Unione dopo il 2000 sono stati scrutinati sulla base dei diritti fondamentali della Carta, perché nessun paese può entrare nell'Unione Europea se non rispetta i diritti fondamentali delle persone. Ma è soprattutto grazie ai giudici che si è consolidata l'Europa dei diritti, perché la Carta è diventata poco a poco un comune riferimento per l'attività interpretativa dei giudici delle corti europee, che diventano sempre più consapevoli di operare in una situazione multilivello in cui i diritti sono protetti dalle norme nazionali, da quelle internazionali della Convenzione europea e da quelle della comunità europea. La Carta dei diritti è stata quindi fonte di orientamento delle corti proprio perché sintesi dei valori e dei principi comuni e si può affermare che l'Europa, nei limiti delle sue competenze, si è dotata di strumenti istituzionali per affrontare il problema della tutela dei diritti fondamentali delle persone, ma ormai questi strumenti li abbiamo e l'efficacia della tutela dipende dall'uso che di questi strumenti sapranno fare gli individui e le istituzioni. Dal punto di vista letterario, la Carta è un testo di struttura semplice chiara, priva di tecnicismi inutili. Ma ha comunque una grande forza simbolica e un grande merito. Può essere contenuta in un minuscolo libretto, ne hanno stampate così in tutte le lingue dell'Unione Europea. E quindi ha la caratteristica che Thomas Paine, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d'America, attribuiva alla Costituzione, quando diceva: la Costituzione è quel pezzo di carta che ti puoi portare in tasca per mostrare quali sono i tuoi diritti. Io, concludendo, mi auguro che fra i vari aspetti negativi che di questi tempi vengono attribuiti, spesso con ragione, all'Unione Europea, almeno la Carta dei diritti costituisca l'eccezione e ci faccia riscoprire la speranza e la volontà dei padri fondatori di costituire una vera federazione europea, visto che il metodo sin qui seguito dei piccoli passi legati all'economia di mercato non ha dato i frutti sperati. Benché sia sembri in linea con il suggerimento di un grande federalista americano, James Madison, il quale proponeva: federiamo i loro portafogli, federeremo i loro cuori. Oggi i cuori dei cittadini europei sembrano piuttosto chiusi nel rancore che aperti a una solidale amicizia. Forse anche perché anche i loro portafogli sono ben poco federati e hanno contenuti molto diversi, anche se sono oggi misurati con la stessa moneta. Credo che di queste vicende dell'Unione Europea vi potrà parlare Virginio D'Astoli, che vi ha già presentato. Grazie Elena. Io ho assistito come manovale, diciamo così, ai lavori della Convenzione sulla Carta e anche a quelli della Costituzione Europea, e ho assistito anche con una doppia veste, sia come funzionario del Parlamento Europeo, sia anche come rappresentante di una rete di organizzazioni non governative che si è costituita a metà degli anni 90 e che si chiamava e si chiama ancora Forum Permanente della Società Civile, e che ha partecipato attivamente con molte altre organizzazioni non governative, assistito ai lavori della Convenzione sulla Carta e poi a quelle sulla Costituzione Europea, e devo dire che dal punto di vista di un osservatore esterno la Convenzione, come ha ricordato Elena Paciotti, è stata anche un esperimento, diciamo così, di democrazia partecipativa molto interessante, anche perché se nella Carta, che spero che voi andrete a leggere, ci sono alcuni elementi di novità, in qualche caso questi elementi di novità derivano anche dal fatto che la società civile si è impegnata partecipando attivamente e costruttivamente a queste discussioni. Elena Paciotti certamente se ne ricorda che a un certo punto dei lavori della Convenzione, mi pare intorno a luglio del 2000, la Convenzione elaborò un progetto dicendo: questo progetto è il frutto di un compromesso fra i rappresentanti degli Stati nazionali, dei governi e dei parlamentari, questo progetto è da prendere o da lasciare, e ci fu invece un'azione abbastanza vigorosa fatta soprattutto dai sindacati europei, ma anche da parte di altre organizzazioni, che dissero che quel testo, così come era redatto, non era sufficiente, bisognava invece migliorarlo. E infatti fra il luglio del 2000 e l'ottobre del 2000 nel testo della Carta sono stati introdotti, soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti dei diritti sociali, penso per esempio al diritto di sciopero, penso per esempio anche al diritto delle persone anziane, che non si ritrovava nel testo iniziale della Carta, e sono stati introdotti anche grazie al fatto che le organizzazioni della società civile non hanno mollato, come si dice, hanno in qualche modo premuto nei confronti della Convenzione, e il testo finale, quello poi adottato prima a Biarritz e poi a Nizza, tiene anche conto di questo lavoro fatto dalla società civile. Ma non è di questo che io volevo parlarvi, perché già Elena Paciotti vi ha fatto un excursus completo dello stato dei diritti fino all'introduzione della Carta. Ma prendendo spunto dal fatto che Elena, quando mi ha presentato, vi ha detto che io sono stato l'assistente di uno dei padri dell'Europa. Non so se qualcuno di voi la sera del 23 di novembre ha assistito in televisione a quello sceneggiato, che quel film TV che si aveva come titolo Un mondo nuovo, Altiero Spinelli, la storia del manifesto di Ventotene. Altiero Spinelli è stato appunto uno di quei padri, e poi c'erano anche delle madri, che durante la Seconda Guerra Mondiale ha ritenuto che in un momento in cui l'Europa era tutta occupata dalle armate naziste e fasciste, salvo il Regno Unito, che alla fine della guerra avrebbe vinto la democrazia, e che però perché la democrazia fosse stabile e solida nel tempo, e quindi perché non ci fosse una terza guerra mondiale, bisognava superare la divisione dell'Europa in stati nazionali, quelle che voi certamente avete studiato nei libri di storia, instaurata nel 1648 dopo la guerra dei Trent'anni, la divisione dell'Europa in stati nazionali, superare questa divisione costruendo invece un sistema europeo sovranazionale che puntasse alla realizzazione di un sistema federale simile agli Stati Uniti d'America. E allora nella concezione di Spinelli, di Rossi, ma anche di altri come Jean Monnet ed altri, c'era l'idea che questa Europa diversa rispetto a quella che aveva provocato due guerre mondiali doveva occuparsi essenzialmente di quattro temi fondamentali. Il primo era quello della pace. L'Europa era stata la protagonista, è stata la causa di due guerre mondiali, fra l'altro con ragioni e con caratteristiche molto diverse l'una dall'altra. Noi quest'anno ricordiamo i 100 anni dall'inizio della prima guerra mondiale. La seconda guerra mondiale, quella dal 1939 al 1945, ha avuto caratteristiche completamente diverse rispetto a quelle della prima guerra mondiale, perché nella prima guerra mondiale c'è stato uno scontro fra eserciti. In qualche modo i nostri stati non sono stati coinvolti, salvo naturalmente i soldati che sono morti in guerra, non sono stati coinvolti nelle guerre, nel senso che salvo le zone di confine, il resto dei paesi non sono stati quasi per niente coinvolti nella guerra. La Seconda Guerra Mondiale invece ha coinvolto tutti i nostri paesi. Pensate che per esempio la Germania, il 70% delle città tedesche è stato distrutto dai bombardamenti e dalla guerra, ma anche l'Italia è stata coinvolta in questo, la Francia e tutti gli altri paesi. Cioè la Seconda Guerra Mondiale, come disse Ernesto Rossi, era una guerra di tutti contro tutti. E quindi si trattava in qualche modo di riflettere su come superare questa situazione che aveva provocato la Seconda Guerra Mondiale, e nell'idea di Spinelli, di Rossi e degli altri, l'unico modo di superarla era quello di combattere due nemici complementari. Diciamo. Il primo nemico da combattere era quello dello Stato-Nazione, lo Stato-Nazione che era responsabile del conflitto fra paesi e fra popoli, e il secondo nemico da combattere era quello della sovranità assoluta. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare di questa frase di Filippo il Bello, che in latino dice Rex est imperator, il regno suo, cioè il re è imperatore all'interno del proprio territorio. L'idea del superamento della divisione dell'Europa in Stati e Nazioni era proprio quello di dire superiamo questo principio della sovranità assoluta che è stato la causa di tutti i mali, e lo superiamo attraverso un modello che deve essere un modello federale. Quindi il primo principio è quello della pace. Nel continente europeo, o almeno una parte importante del continente europeo, perché noi europei siamo anche abbastanza responsabili della guerra civile che è avvenuta nei paesi dei Balcani, cioè in Croazia e Slovenia e negli altri paesi quando è crollata la cosiddetta Federazione Jugoslava, però in una buona parte del continente europeo il sistema comunitario, che vi ricordava anche Elena Paciotti, in qualche modo è stato anche capace di creare un sistema di rapporti fra gli stati che ha evitato che sul continente europeo scoppiasse una terza guerra mondiale. Non peraltro un paio d'anni fa, 3 anni fa, l'Unione Europea ha ricevuto, seppur un po' tardivamente, forse sarebbe stato meglio dargliela prima, perché dargliela in un momento di crisi dell'Europa, qualcuno si è posto la domanda perché è avvenuto questo, l'Unione Europea ha ricevuto dal Comitato per i Premi Nobel della Pace il Premio Nobel per la Pace, che fra l'altro spiega in maniera abbastanza precisa le ragioni per cui l'Unione Europea aveva meritato questo premio. Quindi il primo obiettivo del superamento della divisione Europa in Stati e Nazioni era quello della pace. Il secondo obiettivo è quello della democrazia. in una buona parte dei paesi europei, prima della Seconda Guerra Mondiale, aveva prevalso il sistema del totalitarismo e delle dittature, non soltanto in Francia, in Italia e in Germania, ma anche in molti altri paesi europei, in Bulgaria, in Romania, in altri paesi avevano prevalso sistemi totalitari di tipo fascista, e quindi l'idea era che alla fine della Seconda Guerra Mondiale bisognasse far vincere la democrazia in tutti i paesi dell'Europa. Il terzo elemento per cui era necessario superare la divisione d'Europa in Stati nazionali era quello della libertà, che è strettamente collegata naturalmente al tema della democrazia, e il quarto elemento era quello della ricostruzione economica. L'Europa era rimasta distrutta dalla guerra, bisognava mettere insieme degli strumenti di carattere economico per consentire all'Europa di rinascere economicamente e quindi di tornare a essere un continente nel quale prevalesse lo stato del benessere in qualche modo. E in parte per questa ragione, vi ricordava prima Elena Paciotti, che nel 1950 i paesi europei hanno deciso di cominciare da due settori essenziali dell'economia di quegli anni, cioè da due settori che erano indispensabili per la costruzione economica dell'Europa, che erano il carbone e l'acciaio. Il carbone in quel momento era la fonte di energia primaria dei nostri paesi, oggi non lo è, o lo è soltanto in piccola parte, fortunatamente, perché ci siamo resi conto che il carbone è molto inquinante. E il secondo strumento, il secondo mezzo per la ricostruzione economica era l'acciaio, perché soltanto attraverso l'acciaio si potevano ricostruire le industrie pesanti, non quelle per creare, per produrre le armi, ma quelle per produrre gli elettrodomestici o le macchine o le industrie, come si chiamavano allora, pesanti. Oggi la maggior parte dei nostri prodotti non sono più prodotti attraverso l'acciaio, ma attraverso altri tipi di materie. In quel momento l'acciaio e il carbone erano invece i due strumenti che erano essenziali per la ricostruzione economica, ed è per questa ragione che la prima comunità si chiama Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, perché si è detto: mettiamo insieme queste due cose, il carbone e l'acciaio, che sono fra l'altro le due cose che erano state in parte la causa della guerra fra la Francia e la Germania, perché la Francia e la Germania si litigavano una parte fra questi due paesi, che era l'Alsazia e la Lorena, ed è per questa ragione che è nata la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Allora, come vi dicevo, pace, democrazia, libertà e ricostruzione economica. Ora, in quel momento, quelle erano le sfide di fronte alle quali si trovava l'Europa. L'Europa, però, in tutti questi anni si è andata costruendo secondo quel sistema che vi ho ricordato, Elena Paciotti. Oggi noi ci troviamo in un mondo che è diverso, in un mondo che ci pone una serie di sfide nuove e diverse rispetto a quelle del 1945. Noi viviamo in un mondo cosiddetto globalizzato, avete certamente sentito parlare della globalizzazione. Qualcuno vi ha presentato la globalizzazione come un fenomeno essenzialmente negativo. La globalizzazione non è soltanto un fenomeno negativo. Noi abbiamo avuto, ve lo ricordava del resto anche Elena Paciotti, e ve lo ricorderanno due premi Nobel della pace nelle prossime due elezioni, noi abbiamo avuto la globalizzazione dei diritti, nel senso che nel mondo si sono estesi e sono andati aumentando in tutti questi anni i paesi nei quali è prevalsa la protezione dei diritti piuttosto che il sistema di violazione dei diritti. Pensate, lo diceva, ve lo ricordava Elena Paciotti, al tema della pena di morte. Ogni anno nell'Assemblea delle Nazioni Unite si vota una risoluzione relativa alla abolizione della pena di morte grazie a una proposta e a un'iniziativa dell'Unione Europea, e ogni anno nel mondo aumentano i paesi che decidono di abolire la pena di morte. È stata abolita la schiavitù, è stato affermato in molti paesi del mondo la parità fra uomini e donne. Insomma, noi abbiamo in parte globalizzato i diritti. Pensate che per esempio nel mondo in tutti questi anni è sceso considerevolmente il numero dei poveri. Se noi facciamo la lista del numero dei poveri che esistono nel mondo, oggi nel mondo esistono meno poveri di quante ne esistevano prima, cioè esistono meno persone che vivono al di sotto della dignità umana, molto stranamente invece i poveri aumentano nell'Unione Europea. Noi abbiamo calcolato, ancora secondo dati molto recenti, che anche a causa della crisi il numero dei poveri è aumentato invece all'interno dell'Unione Europea, mentre è diminuito nel resto del mondo. E allora dicevo, la globalizzazione è anche la globalizzazione dei diritti, la globalizzazione è anche la globalizzazione della democrazia. Esiste un organismo internazionale che ogni anno calcola quanti sono i paesi nei quali ci sono sistemi democratici. Poi naturalmente si tratterebbe di riflettere attentamente che cos'è veramente democrazia. Noi siamo abbastanza convinti che la democrazia non è soltanto quel paese nel quale ogni 5 anni si va a votare, perché fra l'altro esistono 2 dittatori europei, Mussolini e Hitler, che sono andati al potere attraverso il voto, quindi non è soltanto il voto che garantisce la democrazia. Però il nostro sistema, lo dice il Trattato di Lisbona, è basato sul sistema soprattutto della democrazia rappresentativa, cioè del fatto che i cittadini hanno il diritto di votare all'interno di un sistema di democrazia pluralista nel quale i partiti si confrontano per conquistare il potere e poi gestirlo democraticamente. Allora, dicevo, globalizzazione dei diritti, globalizzazione della democrazia, e però anche altre cose sono globalizzate: il movimento delle persone, gli immigrati. Una volta erano immigrati soprattutto europei, oggi noi abbiamo un gran numero di immigrati che vengono da paesi terzi, che stanno al di fuori dell'Unione Europea. La globalizzazione dei capitali, cioè dei mercati. Il mondo ormai vive in un sistema in cui i mercati sono aperti. O la globalizzazione dei prodotti, dei mezzi di produzione. Quasi tutti i prodotti che voi comprate sono fatti da pezzi che vengono prodotti in paesi diversi. Quando voi comprate una macchina, la macchina è fatta di tutta una serie di pezzi in cui è raro che i pezzi di quella macchina siano stati tutti prodotti nello stesso paese. E allora questo vi fa pensare, per esempio, che i paesi che cercano di imporre dei sistemi protezionistici impongono dei sistemi che sono in contraddizione e negativi per se stessi, perché introdurre dei sistemi di protezionistici significa in qualche modo impedire lo sviluppo della produzione. Questi sono alcuni aspetti negativi, positivi. Poi però la globalizzazione ha introdotto degli aspetti negativi. Io sono calabrese, nessuno è perfetto, noi calabresi abbiamo esportato nel mondo tante belle cose, però abbiamo esportato un prodotto che non è molto positivo, che si chiama 'ndrangheta, e poi in Sicilia si chiama mafia, in Campania si chiama camorra, in Puglia si chiama sacra corona unita. Cioè noi abbiamo globalizzato la criminalità organizzata, che non è un fatto positivo, è un fatto essenzialmente negativo. Cioè la criminalità in qualche modo non conosce frontiere. Il terrorismo una volta era un fenomeno nazionale, in Italia, in Germania, qualche volta era un terrorismo legato anche a fenomeni di carattere religioso, come per esempio in Irlanda, o a fenomeni di carattere etnico, come per esempio in Spagna, col terrorismo nei Paesi Baschi. Oggi il terrorismo è diventato un fenomeno internazionale, non è più un fenomeno nazionale. È stato prodotto, poi si tratterebbe anche di discutere per quale ragione si è sviluppato il terrorismo internazionale. Io sono abbastanza convinto che la guerra che Bush ha scatenato contro Saddam Hussein in Iraq in qualche modo ha provocato anche un po' un'evoluzione del terrorismo internazionale, ma questo è un altro tipo di discussione. E c'è un altro fenomeno che è negativo e che noi viviamo in tutti questi mesi, che è quello del cambiamento climatico. E l'inquinamento del pianeta non conosce frontiere. Il pianeta è inquinato, è fortemente inquinato, e questo ha provocato il cambiamento climatico. Allora, non mi dilungo di più, tutti questi fenomeni di carattere internazionale, appunto la globalizzazione dei diritti, la democrazia, la libertà di movimento, l'immigrazione, i mercati, i capitali, il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata, il cambiamento climatico, fanno sì che oggi l'Unione Europea si trova di fronte a dei fenomeni diversi e delle sfide che non erano conosciute quando Spinelli e Rossi scrissero il manifesto di Ventotene. Cioè sono tutti fenomeni, diciamo così, sovranazionali, cioè che richiedono delle politiche fatte insieme. Non è più pensabile che un paese da solo possa combattere la criminalità organizzata. Ancora ieri a Bruxelles abbiamo fatto una riunione poi per discutere come combattere meglio la mafia e l'Ndrangheta, fra l'altro attraverso dei sistemi in cui noi in Italia, come voi sapete, confischiamo i beni dei mafiosi, ma questa legge che consente in Italia di confiscare i beni dei mafiosi non esiste negli altri paesi europei, per cui noi per esempio diciamo che ci vorrebbe una norma europea e una legge europea che consenta di confiscare i beni dei mafiosi. Ciancimino, che forse qualcuno di voi ha sentito nominare, che era un mafioso siciliano, ha creato una discarica in Romania con i soldi dei mafiosi. Però questa discarica in Romania noi non possiamo sequestrarla, perché in Romania non c'è una legge che consente di confiscare il bene di un mafioso che si è trasferito in Romania, per farvi soltanto un esempio. Allora questo vuol dire che i nostri paesi, ciascuno per conto proprio, non sono in grado da soli di risolvere questi problemi e quindi ci vuole più Europa, non meno Europa. E quindi tutti quelli euroscettici o eurostili che sono proliferati in questi anni anche a causa del fatto che l'Europa non è stata in grado di dare le risposte ai problemi dei cittadini, ce l'abbiamo anche in Italia, gli eurostili, ma ce l'abbiamo in Francia, ce l'abbiamo nel Regno Unito, dalle ultime elezioni europee il numero degli eurostili è andato crescendo. Gli eurostili dicono: noi dobbiamo distruggere l'Europa e tornare ciascuno all'interno dei nostri paesi. Però gli esempi che vi ho fatto prima ci mostrano che tornare e rinchiuderci ciascuno all'interno dei nostri territori, Rex est imperator in regno suo, significa che noi questi problemi, ciascuno per conto proprio, non saremo in grado di risolverli. Abbiamo bisogno di più Europa e non meno Europa. Però abbiamo bisogno anche di un'Europa nelle quali le decisioni vengano prese in modo più efficace, naturalmente. Quindi abbiamo bisogno di un governo europeo, fatemi usare questa espressione, però abbiamo bisogno anche di più democrazia. Tutte le decisioni che sono state prese in questi anni dai governi, fra l'altro i nostri capi di governo vanno a Bruxelles, si riuniscono fra di loro in una sala, in un palazzo che si chiama Justus Lipsius, tutti e 28, e poi tutti i nostri capi di governo tornano a casa, ciascuno, Renzi, Hollande, Merkel, Rajoy, Cameron, eccetera, tornano a casa, fanno una conferenza stampa e dicono: ce l'ho chiesto l'Europa. Ma non è che gliel'ha chiesto l'Europa, se lo sono decisi per conto loro di fare le politiche che noi abbiamo subito in questi anni, che sono politiche di rigore e di austerità finanziaria. Non è che gliel'ha chiesto qualche matto a Bruxelles, l'hanno deciso loro. Allora noi abbiamo bisogno di un sistema europeo più democratico nel quale i cittadini attraverso i loro rappresentanti, cioè attraverso il Parlamento europeo, siano in grado in qualche modo di prendere decisioni dell'interesse di tutti i cittadini nel loro insieme, cioè dei 500 milioni di cittadini europei. Ed è per questa ragione che il sistema inventato da Spinelli e da Rossi, che era l'idea della Federazione Europea, non è passato, non è un sistema ormai desueto, ma anzi forse è diventato ancora più attuale. Ed è per questa ragione che noi dobbiamo auspicare e aspettarci che il Parlamento europeo riprenda in mano in qualche modo l'ideale di Altiero Spinelli e degli altri per andare avanti sulla strada di un'integrazione più rafforzata, in qualche modo, perché tutti i nostri paesi sono piccoli e da soli non sono in grado di affrontare questi fenomeni che vi dicevo prima. Però perché questo avvenga ci vuole anche una mobilitazione da parte dei cittadini. Cioè noi dobbiamo comportarci un po' come quelle organizzazioni non governative che quando si è fatta la Carta dei diritti in alcuni casi non erano soddisfatti, non è che non erano soddisfatti di quello che aveva fatto Elena e di quello che ha fatto Stefano Rodà, perché anzi Elena e Stefano Rodà si erano battuti in alcuni casi perché alcuni articoli fossero più progressisti, penso per esempio al diritto di sciopero o al diritto di proprietà, in cui l'idea era di avere degli articoli diversi poi rispetto a quelli che erano stati scritti. Però è grazie alla mobilitazione dei cittadini che alcuni articoli sono stati migliorati. E allora questo vuol dire che quando i cittadini si mobilitano qualche risultato maggiore si può raggiungere. Pensate che per esempio noi nel Trattato di Lisbona abbiamo inserito un articolo, che è l'articolo 11, nel quale si dice che 1 milione di cittadini europei possono chiedere all'Unione Europea di legiferare in un settore in cui l'Unione Europea non ha ancora legiferato. E ci sono stati 1.700.000 cittadini europei che hanno sottoscritto una dichiarazione, anzi una proposta di iniziativa di legge popolare, potremmo chiamarla in Italia, per chiedere che venga garantito il diritto all'acqua, ai servizi idrici essenziali. E noi federalisti abbiamo lanciato un'altra iniziativa che si chiama New Deal for Europe, in cui noi vogliamo che si investa molto di più per far crescere l'economia europea. Juncker ha proposto di usare 300 miliardi in 3 anni. Noi pensiamo che 300 miliardi, che sembrano tanti, non sono poi così tanti. Noi abbiamo chiesto che si investa molto di più per far crescere l'economia europea attraverso un'iniziativa che viene sottoscritta dai cittadini europei. Allora, se i cittadini non si mobilitano, il Parlamento europeo, che non è fatto di rivoluzionari, è fatto di persone normali, che noi abbiamo eletto alle elezioni del 25 maggio, non sentirà questa pressione dell'opinione pubblica. Allora serve in qualche modo anche la vostra mobilitazione. E qui concludo. Noi il 21 giugno del prossimo anno, all'inizio dell'estate, abbiamo deciso di organizzare, forse l'espressione sembra un po' maoista quando Mao parlava dei 100 fiori, 100 iniziative di flash mob in 100 luoghi simbolici diversi dell'Europa, a Guernica, a Sarajevo, a Dresda, a Marzabotto, e, insomma, in 100 luoghi che hanno rappresentato positivamente o negativamente in molti casi della storia d'Europa. Noi vorremmo che ci fossero dei giovani che si mobilitino il 21 giugno del prossimo anno per dire al Parlamento europeo: noi vogliamo un'Europa diversa, un'altra Europa, cioè un'altra Europa che sia in grado in qualche modo di risolvere queste sfide che non sono le sfide di ieri, pace, democrazia, libertà, ricostruzione, ma sono queste sfide che io vi ho elencato, e cioè la lotta alla criminalità organizzata, la sicurezza, un'immigrazione solidale, la lotta al cambiamento climatico, dei mercati finanziari che non fissino loro le regole del mercato, ma siano fissino le regole del mercato, e quindi il contrario. Insomma, dare all'Europa gli strumenti per difendere gli interessi, i beni comuni. Questa è l'espressione con cui voglio concludere. La democrazia non è soltanto quando si vota. La democrazia è un sistema nel quale vengono garantiti ai cittadini di un paese democratico dei beni che siano beni comuni. E quella è il vero significato della democrazia, è quello. Allora, se l'Europa non garantisce beni comuni, non è democratica. Se un paese, se l'Italia non garantisce beni comuni, cioè la dignità, la casa, la salute, non è una vera democrazia. Perché la democrazia è il luogo nel quale vengono garantiti i beni per tutti, i beni comuni. Allora il sogno che noi abbiamo è quello di avere un'Unione Europea che garantisca dei beni comuni che gli Stati nazionali, ciascuno per conto proprio, non sono in grado di garantire. Questo è il sogno di Spinelli, qualche volta i sogni si trasformano in realtà e noi speriamo che questo avvenga anche per l'Unione Europea. Grazie. Se c'è qualcuno che vuole fare delle domande. Ce n'è uno. Ottima domanda. Poi? Come volete, prendiamo 3 o 4 domande se ce ne sono, se no possiamo rispondere mentre altri pensa. Noi veniamo da una storia di stati-nazione, è stato un miracolo addirittura che queste nazioni decidessero di condividere delle quote di sovranità, è mica facile. La sovranità appartiene, fra l'altro c'è anche un problema, come dire, di democrazia, la sovranità appartiene al popolo, dice la nostra carta, e dobbiamo cederla, condividerla con altri popoli. Non è stato molto facile, infatti il cammino è stato lento e l'idea che si potesse fare invece una grande federazione avrebbe richiesto una grande mobilitazione dei popoli europei che si convincessero che le loro nazioni non bastavano più. E questo non c'è stato. Alla fine della guerra, l'unica cosa che delle élite molto motivate sono riuscite lentamente a produrre è stata l'idea: mettiamo insieme qualche cosa per garantirci la pace. È questo che si è riusciti a far fare agli stati di allora. Però c'era la speranza di fare molto meglio. E la storia europea è percorsa da questi tentativi di andare avanti che poi portano invece a degli stop, a delle resistenze, a dei passi indietro. Il primo scacco grosso è stato quello del fallimento della CED, la Comunità Europea di Difesa. Una delle cose sembrava più evidenti in quel momento, noi ci siamo fatti la guerra utilizzando il carbone e l'acciaio, ma soprattutto gli eserciti. Mettiamo insieme gli eserciti. E a questo punto abbiamo fatto un grosso passo avanti. Il trattato è stato sottoscritto, ma la Francia non l'ha ratificato. E così è stato sempre nei momenti successivi. Tante volte si è cercato di andare parecchio avanti. La stessa vicenda ultima, della non c'è stata soltanto una convenzione, ce ne sono state due. La prima convenzione ha scritto la Carta dei diritti e lì le cose sono andate, vi ho detto, in 9 mesi si sono messi d'accordo, ma anche perché lì i politici, i governi, le maggioranze l'hanno un poco sottovalutata. Beh, si trattava di scrivere i diritti, mandiamo dei giuristi. Nella seconda convenzione, in cui si trattava di modificare i trattati e fare una Costituzione europea, perché nel mandato del Consiglio europeo c'era anche questa ipotesi, eventualmente di pensare a una Costituzione. Abbiamo lavorato per una Costituzione. E siamo andati avanti molto bene fino al febbraio del 2003, quando l'Europa si è divisa per la guerra in Iraq. Parte degli stati europei sono stati con Bush a invadere l'Iraq, l'Italia anche sosteneva questa guerra, parte degli stati europei non erano d'accordo. Come si faceva in un contesto del genere a inventare una politica estera comune? Purtroppo la storia è faticosa da mutare, le tradizioni sono faticose da rimuovere, ci vuole non solo un grande ideale, ma anche una grande convinzione e partecipazione. In certi momenti lo sgomento all'indomani della Seconda Guerra Mondiale per quella tragedia immane ha fatto sì che si facesse questo passo avanti. Poi, con il crollo del muro di Berlino, quando si è trattato dell'unificazione della Germania, anche lì il timore di diverse cancellerie e paesi europei che la Germania diventasse troppo forte ha fatto sì che, per assicurarsi l'unificazione della Germania, la Germania ha potenziato l'unità europea. Non vi preoccupate, noi non vogliamo dominare gli altri paesi, noi cediamo maggiori quote di sovranità. E si è fatto un ulteriore passo avanti, perché, come vi ho detto, abbiamo cominciato col carbone e con l'acciaio, poi siamo andati avanti con regole di mercato, poi la moneta unica, poi la cittadinanza, poi lo spazio di libertà e sicurezza e giustizia, perché per poter far muovere i lavoratori da un posto all'altro bisognava che potessero portare con sé i loro diritti, potessero garantirsi che i contributi per la pensione pagati in un paese potessero valere nell'altro, e quindi si è cominciato a creare una forma di tutela sociale comune. Ecco, piccoli passi per raggiungere determinati obiettivi, ma il grande salto della una grande assemblea europea che votasse una Costituzione europea, questo non c'è nei nostri paesi. Oggi addirittura, abbiamo sentito, aumentano gli euroscettici, aumentano i nemici dell'Europa, perché finché si vedono i vantaggi, oggi, subito, vicini, si cambia magari idea, ci si mobilita, ma quando invece si vedono soltanto i pericoli e non si va avanti. E quindi è un problema che riguarda tutti noi. Certo, se i cittadini europei volessero una federazione si farebbe domani, perché per fortuna viviamo in democrazia, quindi eleggerebbero coloro che lo sostengono, e invece no, purtroppo stanno, non dico vincendo, ma certamente prendendo molto piede coloro che l'Europa non la vogliono più. Grazie. Non so se devo ripetere la domanda. E l'altra, su questo deficit democratico che c'è nell'Unione Europea, cosa si può fare per rafforzare, diciamo, i poteri del Parlamento europeo, che è l'unico organo democraticamente eletto rispetto alla Commissione o anche la stessa BCE, che non ha alcun controllo di nessun genere. Grazie. Su questa seconda domanda lascerei la parola ad Astori, dicendo che comunque dal punto di vista giuridico l'unico sistema per dare più poteri al Parlamento europeo è modificare i trattati, perché la caratteristica dell'Unione europea è di essere costituita attraverso trattati, perché ci vuole l'accordo degli stati, firmano i governi, i parlamenti ratificano, per poter cedere quote di sovranità. Quindi lo strumento per dare più poteri o per comunque fare qualsiasi modifica nell'assetto istituzionale dell'Unione Europea è fare un altro trattato, e quindi l'accordo di tutti i governi e la ratifica di tutti i parlamenti. Però il problema del deficit democratico è più ampio e ve ne parlerà D'Astori. Quando al Jobs Act, è stato sostenuto anche in qualche giornale che ci sarebbe una violazione della Carta. La Carta dei diritti vieta i licenziamenti ingiustificati e pretende che ci sia un ristoro rispetto al licenziamento ingiustificato. Non stabilisce più di così, perché le normative dei diversi paesi sono diverse. Da noi il licenziamento ingiustificato comportava una volta l'ordine di reintegro della persona licenziata ingiustificatamente. Cosa del tutto ovvia, perché quando c'è una lesione di un diritto la prima cosa da fare è ripararlo rimettendo la situazione in pristino come era prima. Se io ti ho rubato una cosa di tua proprietà, la prima cosa devo restituirtela. Se non ce l'ho più, allora ti devo risarcire, ma è in seconda battuta, se non posso dare. Ora, se c'è un licenziamento ingiustificato, il giudice dice è ingiustificato, quindi rimettilo dove era prima, riassumilo com'era. Ora, tutto questo ha comportato diverse discussioni in Italia, e si è sempre sostenuto, a mio giudizio ingiustificatamente, che questo sistema impediva la libertà d'impresa, limitava le scelte degli imprenditori, eccetera. E si è giunti con la riforma Fornero a modificare in parte questa disposizione, e adesso col Jobs Act a ulteriormente modificarla, non si sa ancora come, perché il Jobs Act, cosiddetto, chissà perché la legge sul lavoro deve avere un nome inglese, si stabiliscono dei criteri molto generici perché poi dei decreti delegati che farà il governo stabiliscano più dettagliatamente i casi. Naturalmente, siccome comunque rimarrà, perché non può non rimanere, se no sarebbe del tutto incostituzionale, la riparazione sotto altre forme, sotto forme monetarie, anziché sulla restituzione in pristino della condizione violata, non si ha una contraddizione con la Carta, perché la Carta non stabilisce un sistema specifico di tutela contro il stabilisce che deve essere tutelato il lavoratore rispetto al licenziamento ingiustificato, ma non entra nel dettaglio della forma attraverso cui questa riparazione deve essere garantita. Sembra che le linee direttive del Jobs Act portino a questa situazione, che certamente il licenziamento discriminatorio, cioè io ti licenzio perché sei nero, perché sei un sindacalista, perché sei una donna, questo comporta senz'altro il ripristino, la reimmissione nel posto di lavoro. Non lo comporterà, sembra, il licenziamento per motivi economici. Io non posso più tenerti, per cui ti licenzio. Se questo anche dovesse dal giudice essere ritenuto ingiustificato, siccome dice il giudice non si deve occupare delle valutazioni economiche, si dà semplicemente un risarcimento. Si aggiunge adesso che potrebbe esserci invece il ripristino del posto di lavoro per il caso di licenziamenti per disciplinari. Tu mi hai appunto rubato una cosa, danneggiato l'impresa, eccetera, io ti licenzio per colpa tua. Ecco, in questo caso ci sarebbero delle specificazioni che i decreti delegati stabiliranno in quali casi la infondatezza di questa pronunzia disciplinare comporta il ripristino del posto di lavoro, la reintegro del posto di lavoro oppure no. Insomma, una situazione che, come vedete, diminuisce comunque le tutele, perché è principio generale del diritto che quando una violazione è accertata si ristabilisca la situazione precedente, e soltanto in subordine, se questa cosa non è possibile, si vada a risarcimenti per equivalente, a risarcimenti monetari. In questo caso invece questo principio generale non viene rispettato, anzi viene rispettato sempre meno dalle successive legislazioni attuali. Sì, per quanto riguarda il deficit democratico ci sono due modi di concepirlo. Il primo, che era un po' in auge molti anni fa, era quando si diceva il deficit democratico è quando noi togliamo poteri ai parlamenti nazionali e li trasferiamo a Bruxelles. Oggi il deficit democratico è un'altra cosa. Il deficit democratico è quando in una certa dimensione, che può essere uno Stato, può essere l'Europa, o può essere una regione, qualunque livello, diciamo così, costituzionale, l'autorità investita del potere non è in grado di garantire al cittadino dei beni che devono essere garantiti all'interno di quella dimensione. E quindi quando uno Stato non è in grado di garantire certi beni, come dicevo prima, quando uno Stato non è in grado di garantire la lotta alla criminalità organizzata o al cambiamento climatico, al terrorismo, o per esempio alla sicurezza energetica, perché noi dipendiamo da paesi che stanno al di fuori di noi, in quello Stato esiste un deficit di democrazia. E quindi questo deficit di democrazia esiste oggi anche a livello di Unione Europea, perché in alcuni di questi casi l'Unione Europea non ha avuto dagli Stati, cioè dai governi, perché i governi tentano in qualche modo di mantenere quel principio che dicevo prima, rex est imperator regno suo, cioè di garantire, di mantenersi in certi casi la sovranità assoluta, e quindi non hanno trasferito questi poteri a livello europeo. Oggi l'Europa in alcuni casi non ha i poteri necessari per garantire dei beni che non possono essere più garantiti a livello nazionale. Allora il superamento del deficit democratico non sta più nella sottrazione di certi poteri ai parlamenti nazionali e darli al Parlamento europeo, ma sta invece nel dare all'Unione Europea dei poteri in settori in cui gli Stati nazionali non sono più in grado di legiferare. Le faccio un altro esempio. Con tutte le norme che sono state decise in questi anni a livello europeo per garantire, come hanno voluto i governi, la lotta al debito pubblico attraverso tutto un sistema un po' complicato, i parlamenti nazionali ormai sono stati spossessati di un potere che è il potere originario dei parlamenti, no taxation without representation, cioè non è possibile imporre delle tasse senza che queste siano garantite da un sistema democratico, perché ormai i bilanci nazionali sono negoziati fra i governi e Bruxelles, e quando questi bilanci vengono messi di fronte a un Parlamento, il Parlamento è messo di fronte soltanto a prendere o lasciare in qualche modo. Quindi si è creato quello che qualcuno chiama la deparlamentarizzazione, cioè che i parlamenti nazionali europei sono stati tutti quanti spossessati del loro potere. C'è un filosofo tedesco che si chiama Habermas che lo chiama il federalismo degli esecutivi, cioè che il potere è rimasto soltanto nelle mani dei governi nazionali. Allora, per superare il deficit democratico dobbiamo rafforzare la dimensione europea, cioè dare maggiori poteri al Parlamento europeo. Fra l'altro, se ci si batte, certi risultati si ottengono. Quando il Parlamento europeo è stato eletto per la prima volta nel 1979, non aveva nessun potere, o a meglio, ce n'era soltanto due negativi, quello di respingere il bilancio e quello di mandare a casa la Commissione. Oggi fra il 60 e il 70% delle leggi europee vengono codecise dal Parlamento e dal Consiglio, con grandi vantaggi anche da parte dei cittadini, perché le leggi europee sono fatte anche nell'interesse dei cittadini e non soltanto nell'interesse degli stati. Allora il deficit europeo, il deficit democratico è superabile in questo senso, nel senso di qualche volta, fra l'altro, il Parlamento europeo è in grado di autoattribuirsi dei poteri senza necessariamente rivoluzionare i trattati. In alcuni casi il Parlamento europeo ha utilizzato lo strumento del veto o lo strumento di un'azione molto forte per riuscire a imporre ai governi, adesso lo vedremo per esempio per quanto riguarda il negoziato con gli Stati Uniti, il trattato sul commercio con gli Stati Uniti. Qualche anno fa i governi avevano negoziato un trattato con gli Stati Uniti che si chiama ACTA e avevano negoziato molto tranquilli, nel senso che l'hanno firmato a luglio, tutti contenti i governi e anche la Commissione perché avevano raggiunto un accordo con gli Stati Uniti, e poi l'hanno presentato al Parlamento dicendo beh adesso metteteci la firma. Il Parlamento ha detto ma non se ne parla proprio. Il Parlamento europeo, che aveva questo potere nel trattato di veto perché doveva ratificare, ha detto andatevene a casa, e quel trattato con gli Stati Uniti, che il Parlamento europeo aveva ritenuto come un atto negativo per gli interessi europei, non è stato firmato. Oggi c'è un milione più di un milione di europei che hanno detto noi il trattato con gli Stati Uniti in questi termini commerciali non vogliamo firmarlo, e anche quel trattato che oggi i governi stanno negoziando in segreto con gli Stati Uniti alla fine dovrà essere sottoposto al parere favorevole del Parlamento europeo. Se il Parlamento europeo dirà di no, non ci sarà nessun trattato con gli Stati Uniti. Cioè in qualche caso il Parlamento europeo in qualche modo è in grado di imporre la sua opinione. L'ultima cosa per quanto riguarda la Banca Centrale Europea. Io sono convinto che Draghi in questi anni ci ha salvato da molte cose negative, nel senso che noi del 2012 rischiamo che saltasse tutto, e Draghi ha detto, dice, io farò tutto il possibile per salvare l'euro, cioè per salvare l'Europa. Fra qualche giorno, in gennaio, Draghi, che in qualche modo adesso è sottoposto a un ricatto da parte di una minoranza della Banca Centrale Europea, ha deciso di acquistare i titoli del debito pubblico per garantire anche gli interessi dei paesi che sono in difficoltà. Quindi ben venga in qualche modo l'azione di Draghi. Teniamo conto di una cosa, che il nostro governatore della Banca d'Italia, che si chiama Ignazio Visco, a Montecitorio lo si vede raramente, anzi credo che ci va forse una o due volte all'anno. Draghi, che sta a Francoforte, almeno 3-4 volte al mese si vede nei corridoi, non soltanto nei corridoi, ma riferisce regolarmente al Parlamento europeo. Cioè il Parlamento europeo ha un potere di controllo nei confronti della Banca Centrale che i parlamenti nazionali se lo sognano. Draghi riferisce regolarmente in aula e alla Commissione Affari Economici e Monetari. I governatori delle banche nazionali questo controllo da parte dei parlamenti nazionali non ce l'hanno, e quindi c'è in qualche modo un controllo democratico nei confronti della Banca Centrale, che naturalmente fa il suo mestiere. Quando c'è una parte, per esempio, della sinistra, io sono abbastanza progressista, quando c'è una parte della sinistra che dice la Banca Centrale deve occuparsi della lotta alla disoccupazione, non è il ruolo della Banca Centrale, sono i governi attraverso le politiche economiche. La Banca Centrale ha il ruolo di garantire la stabilità monetaria, di garantire che la moneta europea sia in qualche modo competitiva rispetto a quella degli altri paesi. Draghi si è assunto tutta una serie di poteri in qualche modo interpretando in maniera abbastanza estensiva lo statuto della Banca Centrale, acquistando titoli di debito pubblico sui mercati finanziari. Quindi io sono convinto che la Banca Centrale ha fatto bene il suo mestiere, Draghi, e speriamo che resti lì e che non gli chiedano di fare altro nei prossimi mesi. Però ecco, questo è il sistema, e sono convinto che in questo quadro l'Europa, da questo punto di vista, l'Unione Europea può essere considerata una best practice, perché la Banca Centrale Europea risponde molto di più al Parlamento Europeo, come dicevo prima, di quanto le banche nazionali, centrali nazionali, rispondano ai loro parlamenti nazionali. In Italia, quali sono i punti sanciti dalla Carta europea che in questo momento sono meno rispettati oppure incompleti? Io direi che in generale tutti i diritti che provengono dalla Convenzione europea sono rispettati. Salvo quelli per i quali siamo condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per esempio il sovraffollamento carcerario o il trattamento nei centri di detenzione provvisoria per gli immigrati. Abbiamo ricevuto sanzioni o raccomandazioni negative per queste cose. Abbiamo poi delle, anche su questo terreno diciamo molto tradizionale, delle responsabilità per esempio per non avere introdotto il delitto di tortura. Naturalmente non è che è consentita la tortura da noi, perché ci sono norme contro le percosse, i maltrattamenti e cose di questo genere, ma il delitto specifico di tortura che dovrebbe comportare delle pene molto più severe non è stato introdotto, mentre è specificamente previsto dalla Carta dei diritti fondamentali. Le altre norme sono sostanzialmente rispettate, dipende poi dalla qualità, per esempio, perché sono previsti servizi assistenziali, sono previsti una cosa che noi non abbiamo adeguatamente istituito, per esempio, sono i servizi di collocamento pubblico, sono previsti specificamente dalla Carta dei diritti fondamentali e questi non li abbiamo istituiti sul territorio nazionale. Ci sono forme di tutela dei diritti sociali che sono diciamo inadeguate, ma inadeguate nella funzionalità. Non è che non è previsto che ci sia la tutela dei diritti della salute, certamente è previsto. Si tratta di vedere se nel concreto sono poi attuate delle misure amministrative di gestione che garantiscano questo diritto a tutti. Ecco, ci sono quindi delle violazioni che non sono specificamente violazioni della Carta, sono violazioni anche della nostra Costituzione e delle nostre leggi. Ripeto, violazioni nei confronti degli obblighi internazionali ce li abbiamo per la mancata istituzione, ma questa non è prevista specificamente dalla Carta, di strumenti che dovremmo adottare. Vi ho detto della legge contro la tortura che non c'è. Questa, la Carta dei diritti fondamentali punisce severamente la tortura, ma non prescrive specificamente che ci sia una legge. Però noi siamo obbligati a introdurre questa legge da norme, da convenzioni dell'ONU, così come per convenzioni dell'ONU saremmo obbligati a istituire un'autorità indipendente che in Italia controlli il rispetto dei diritti fondamentali. Questa è stabilita dai principi di Parigi del 1993. Ogni volta che il Consiglio dei diritti umani dell'ONU si riunisce per esaminare la situazione dell'Italia, ci fa presente che non abbiamo ancora istituito questa autorità. Naturalmente se uno vede i suoi diritti violati si rivolge al giudice, il giudice c'è, il problema è che magari non ci mette molto tempo a decidere, però il giudice c'è. Questa autorità sarebbe un'autorità di prevenzione, non una che dà delle sanzioni, però noi abbiamo molto bisogno di prevenzione, perché noi abbiamo bisogno di vedere prima le violazioni più gravi che vengono commesse. Ci sono i giudici per sanzionarle, ma arrivano sempre tardi e arrivano con molto ritardo proprio perché non c'è un'attività adeguata di prevenzione. Per cui le istituzioni, come l'autorità indipendente per i diritti umani, sono istituzioni che sono utili perché consentirebbero di prevenire anziché poi dover reprimere tardivamente e male quando le violazioni si verificano. Okay. L'euro si è mostrato una moneta forte per tutti, no? Quindi siamo passati dalla lira, che valeva quasi la metà di un dollaro, adesso all'euro che ne vale quasi 1,35. Ma molti comunque continuano a vederlo come un fallimento. Quindi quali sono le cause che hanno portato a considerare l'euro in questo modo e cosa comporterebbe eventualmente fare un passo indietro sia per quanto riguarda l'Italia che per gli stati, insomma per l'Europa tutta? Né io né D'Astoli siamo degli esperti di economia, però ci proveremo fra tutti e due a dare una risposta. L'euro è diventata una moneta forte perché rappresentava un'economia forte. Nei primi anni, fino al 2007, noi abbiamo avuto un consolidamento delle nostre economie e dei vantaggi molto forti. La crisi del 2007, cominciata con il fallimento del Lehman Brothers e con il problema dei cosiddetti subprime, con lo scoppio della bolla immobiliare negli Stati Uniti d'America, si è ribaltata sull'Europa, benché l'Europa non l'avesse iniziata, è cominciata altrove questa crisi. È una crisi finanziaria che è dovuta non al fato, è dovuta a cattive politiche, perché questo sistema costruire i derivati, che sono dei titoli che incorporano titoli precedenti e quindi moltiplicano l'esposizione. Uno ha un debito di 100, la banca che ha questo credito lo trasforma in un titolo che poi viene a sua volta incorporato in un altro titolo. In questo modo si è moltiplicato fino a 8 volte il volume del debito. A questo punto è bastato che appunto fallisse la Lehman Brothers, una delle grandi istituzioni, perché si vedesse che questa enorme bolla non aveva consistenza. Le banche hanno avuto difficoltà, stavano per fallire, i paesi, i governi hanno ritenuto, forse giustamente, di dover salvare le banche, perché lì ci stavano i risparmi di tutti i cittadini, i conti correnti di tutti noi, e quindi hanno investito i fondi, facendo magari debiti pubblici, per salvare le banche. Questa situazione è dovuta al fatto che la grande finanza e le grandi banche hanno potuto fare queste operazioni che hanno portato a queste conseguenze, che prima non erano consentite. Vi erano norme negli Stati Uniti, in Europa, che proibivano quel tipo di strumenti rischiosi. I governi, secondo questa ubriacatura neoliberista che abbiamo avuto in Occidente, hanno accettato le pressioni dei grandi finanzieri per eliminare questi vincoli, si sono potuti creare questi strumenti finanziari pericolosi. La caduta di questo sistema ha prodotto queste enormi conseguenze anche in tutta Europa, ha fatto crollare in qualche modo le nostre economie. Purtroppo alla cattiva politica che ha eliminato i vincoli alla finanza e consentendo questa crisi, si è aggiunta una cattiva politica per rimediarvi. Si sono applicati in modo abbastanza ottuso i criteri stabiliti a Maastricht nel 1992, per quando cioè si stava varando la moneta europea, per far convergere le nostre economie, per stabilire criteri comuni di bilancio. Si sono fissate delle regole, il famoso 3% di limite della differenza fra il PIL e dei disavanzi nazionali. Questa modo ottuso di rispondere, siamo in difficoltà, stringiamo la cinghia, non facciamo investimenti, non creiamo nuova economia, ha fatto sì che si crei un declino costante. Evidentemente la risposta dovrebbe essere, e tantissimi economisti europei, americani lo hanno detto, la risposta deve essere opposta. Facciamo debiti europei per investire nell'economia, per rilanciare l'economia, per avere una ripresa. Solo così, guadagnando di più, possiamo pagare i debiti nazionali e possiamo avere uno sviluppo e una ripresa dell'economia. Questa politica purtroppo non è possibile per la ragione che forse avete già inteso. Per fare una politica diversa ci vuole l'accordo dei governi. Il deficit di democrazia in Europa, che riguarda non quel 60% delle decisioni che vengono prese con l'intesa con il Parlamento europeo, ma quell'altro 40% di decisioni che invece non comportano l'intervento del Parlamento, ma soltanto l'accordo dei governi, vengono prese soltanto con l'accordo totale, con l'unanimità dei consensi dei governi. Noi non abbiamo una politica economica comune, abbiamo una moneta unica, ma non un governo dell'economia unico. Abbiamo una politica commerciale unica, ma non il governo della finanza e dell'economia. Avere una moneta senza dietro un governo che stabilisce cosa fare quando la moneta è a rischio è un'assurdità. Però così stiamo. L'economia viene, i provvedimenti economici vengono stabiliti con accordi fra i governi, il fiscal compact, queste cose di cui avete sentito parlare. Bene. Siccome la Germania e gran parte dei paesi del nord Europa continua a seguire questo tipo di politica, per cui bisogna rispettare i parametri di Maastricht, gli ormai stupidi parametri di Maastricht, quelli che non ci consentono di uscire da questa situazione, noi siamo imbrigliati. Che cosa fare? Qualcuno dice usciamo dall'euro. Beh, sarebbe, credo, una catastrofe. Provate a immaginare un momento. Intanto come si fa? Dobbiamo fare trattative segrete con gli altri paesi per dire guardate che noi adesso da domani mettiamo la lira. Non credo che questi segreti sarebbero mantenuti molto a lungo. Che cosa succederebbe? Che tutti gli investitori, i creditori dell'Italia capirebbero, questi lasciano l'euro, tornano alla lira, noi scappiamo velocemente dagli investimenti italiani, ci rifugiamo altrove. E quindi se poi riuscissimo d'improvviso a introdurre di nuovo la lira, cosa dovremmo fare? Nottetempo chiudere le frontiere, impedire ogni movimento di capitale con l'estero, avere un crollo nel cambio, forse della metà del valore. Sarebbe una cosa davvero tragica. Può darsi che poi nell'arco, che so, di 10 anni, con la lira svalutata, che lentamente può riprendere, che so, ad avere qualche vantaggio nell'esportazione, perché la nostra lira varrebbe molto di meno delle altre monete. Può darsi che dopo un periodo di anni ci riprenderemmo felicemente, ma certo sarebbe un momento assolutamente tragico di crollo totale dell'economia. Senza quello, e andando avanti in questa situazione attuale, abbiamo un lento declino di tutta l'Europa. L'unica speranza è che, come si è detto, ci si risvegli, che si capisca che questa politica economica è sbagliata e si decida che dobbiamo cambiare la politica economica europea. Non ci vuol molto se ci mettiamo d'accordo fra gli Stati. Però purtroppo occorre cambiare un po' la testa alla signora Merkel, ai signori dei paesi del nord che l'appoggiano, perché evidentemente, con qualche ragione, hanno una forte diffidenza nei confronti dei paesi mediterranei che fanno debiti, che sono spreconi, che non sono rigorosi nei loro bilanci, e in questo modo finiscono però per danneggiare tutti quanti. Credo che appunto si tratti non di scappare dall'euro, ma di riuscire a convincere i popoli europei, i governi europei, che si deve fare una politica espansiva, che il 3% non ha nessun senso perché non l'ha stabilito nessun economista, è stata una trattativa lì per lì che ha scelto questo 3%, diciamo che diventa il 6 o il 10 e non muore nessuno. Però bisogna appunto, come per tante altre cose in Europa, riuscire a convincere i governi e i parlamenti e i popoli che bisogna cambiare. Volevo chiedere, riguardo alla scarsa affluenza che c'è stata alle urne nel 25 maggio per le elezioni europee, no? Sono io. E mi chiedevo come mai l'Europa non fa uno sforzo, o comunque in Italia come mai, per esempio, i TG non si occupano di politica europea, non parlano abbastanza di leader europei, o anche... a scuola, non dico a scuola, ma almeno nei TG non si parli della politica dell'Europa, insomma del Parlamento europeo, e come mai l'Europa non fa niente per cambiare questa situazione? Grazie. Ma la responsabilità è soltanto in piccola parte dell'Europa, nel senso che la Commissione europea ha un piccolo bilancio che mi pare che sia di 13 milioni di euro all'anno per fare politiche di comunicazione in tutti i 28 paesi. Il problema è che devono essere le autorità dei paesi e anche le autorità della comunicazione, quindi per esempio la RAI, che dovrebbero consacrare più tempo a queste tematiche. Purtroppo si ha l'impressione, probabilmente anche perché la politica di comunicazione viene fatta e viene fatta male, che quando si parla di Europa la gente non si interessa. Ora il problema non è che la gente non si interessa, bisogna vedere anche come se ne parla. Vi citavo prima questa fiction su Spinelli che è stata diffusa dalla RAI il 23 novembre sera, che ha avuto 3 milioni di spettatori. 3 milioni di spettatori dall'inizio alla fine sono stati a guardare questo film dedicato a Spinelli, alla moglie, eccetera. Beh, 3 milioni di persone quindi per la domenica sera hanno ritenuto che piuttosto che vedere Ballando sotto la pioggia o altre cose, era più interessante Ballando non sotto la pioggia, sotto le stelle, era più interessante vedere questo film. Fra l'altro la presidente della RAI, che io considero una brava persona, aveva deciso quella settimana, dal lunedì alla domenica, di dedicare, di proporre ai contenitori della RAI di fare quella che lei ha chiamato una maratona dell'Europa, cioè che tutti i contenitori dedicassero una parte dei loro programmi all'Europa. Però siccome i responsabili dei vari contenitori, per fare soltanto un nome a caso, il caso di Bruno Vespa per esempio, sono autonomi, perché fra l'altro sono non solo dei funzionari della RAI, ma hanno creato delle loro società che vendono alla RAI questi prodotti, e quindi la Taranto ha chiesto a Bruno Vespa di dedicare una trasmissione di Porta a Porta durante la settimana all'Europa, e Bruno Vespa si è ben guardato di seguire il suggerimento della Taranto. La stessa cosa è avvenuta negli altri programmi. Quindi c'è anche una responsabilità dei media e della stampa, al di là delle castronerie che spesso si leggono sui giornali, che scrivono per esempio, non so, confondono il Consiglio d'Europa con l'Unione Europea, o la Corte di Strasburgo con la Corte di Lussemburgo, eccetera. Quindi ci vuole effettivamente una assunzione di responsabilità da parte dell'autorità. Io che mi sono occupato di queste cose, essendo stato per 6 anni direttore della Commissione Europea in Italia, ho detto che siccome il bilancio europeo per il 70% viene gestito dalle autorità nazionali e regionali, io sono convinto che le regioni, visto che qui stiamo nel palazzo della regione che ricevono molti soldi da Bruxelles, l'informazione sul modo in cui questi soldi vengono gestiti non dovrebbe essere fatta da Bruxelles, dovrebbe essere fatta da quelle autorità che di questi soldi beneficiano. E quindi se tutti quanti quelli che beneficiano dei soldi europei facessero una campagna di informazione sui vantaggi, ma anche sugli svantaggi degli europei, io credo che dell'Europa se ne parlerebbe di più. Questo secondo me può essere effettivamente una strada da seguire, forse dando qualche soldo di più anche alla Commissione europea perché possa spenderli meglio di quanti li abbia spesi finora, però secondo me questo potrebbe essere anche la strada. Se in Europa prendesse piede una minoranza che esalta la dittatura, riuscirebbe l'Unione Europea a fronteggiarla e a garantire il rispetto dei diritti umani sanciti dalla Carta? Nel Trattato sull'Unione Europea c'è un articolo che è stato introdotto nel Trattato di Amsterdam del 1999, che è un trattato che dice che se un paese, fra l'altro è un articolo in due parti, perché questa è anche la cosa interessante, la proposta iniziale era di dire se un paese viola in maniera grave e persistente dei diritti fondamentali, questo paese può subire delle sanzioni da parte dell'Unione Europea. Questo articolo fu introdotto quando in un paese europeo, che era l'Austria, in una certa tornata elettorale, c'è stato un partito di tendenze neonaziste che era guidato da un austriaco che si chiama Haider, e i paesi europei furono molto preoccupati dalla crescita di questo partito. E allora questo ha provocato la necessità di mettere nel trattato un articolo, che è l'articolo 7 appunto del Trattato di Lisbona, il quale però è diviso in due parti, questa è la cosa importante. C'è una prima parte in cui si dice se in un paese si ritiene che ci sia il rischio, non che si violino, ma che ci sia il rischio che in questo paese si violino i diritti fondamentali, bisogna mettere in moto una procedura per evitare che questo rischio si trasformi in realtà. Ed è una procedura un po' complicata, ma insomma è una procedura che è prevista. E poi c'è una seconda parte dell'articolo che dice se in un altro paese ci si trova di fronte a una situazione di violazione grave e persistente dei diritti fondamentali, l'Unione Europea può adottare delle misure che possono arrivare anche fino al punto di sospendere la partecipazione di questo paese, di questo governo, agli organi dell'Unione. Purtroppo però gli articoli scritti sulla carta sono una bella cosa, poi si tratta di applicarli. Noi abbiamo in Europa un paese che è l'Ungheria, nel quale il governo, a mia opinione, ha violato in maniera grave e persistente dei diritti che sono collegati per esempio ai temi della democrazia pluralista o all'indipendenza della magistratura e della stampa. E purtroppo l'Unione Europea, per una ragione di realpolitik, non ha ancora avviato quelle procedure previste dall'articolo 7. Noi siamo molto rigorosi nei confronti dei paesi candidati, molto rigorosi, nel senso che un paese candidato può entrare nell'Unione soltanto a condizione che gli si fanno le pulci e che quindi questo paese dimostri di essere molto rigoroso nella protezione dei diritti fondamentali. Questo stesso rigore che noi applichiamo nei confronti dei paesi candidati lo applichiamo molto meno nei confronti dei paesi che fanno parte dell'Unione. Però l'articolo c'è, nel senso che io sono convinto che se per esempio in un paese, non so se in Italia, venisse al potere una persona come Mussolini, intanto io sono convinto che c'è una situazione deterrente, nel senso che siccome le nostre economie sono talmente interdipendenti, io sono convinto che questa ipotesi è un'ipotesi di scuola, nel senso che mi sembra molto difficile che in un paese dell'Unione possa prevalere una dittatura. Però nel caso in cui ci si avvicinasse a una situazione di questo genere, ci sono dei meccanismi dell'Unione Europea che consentono di applicare delle sanzioni in modo tale che questo non avvenga, diciamo.